Storie italiane. Il saltatore. C'era una volta, nel vasto continente di Rolva, una grande battaglia tra due regni. Uno guidato dal re Julian di Meridon e l'altro dalla regina Minerva di Clong. La battaglia durò per giorni. Vedendo il suo esercito fallire, la regina Minerva maledisse il regno di Meridon. Re Julian, hai usato modi sleali per vincere questa battaglia e quindi ti maledico così che quando tornerai a casa tutti i tuoi uomini si trasformeranno in animali. Ti maledico! Detto questo, la regina Minerva scomparve. Il re Julian non prestò attenzione alla maledizione e tornò nel suo regno, dove ricevette una calorosa accoglienza da sua figlia. Il giorno successivo, tuttavia, quando era a corte, improvvisamente uno ad uno tutti i suoi ministri iniziarono a trasformarsi in animali. Oh no! La sua maledizione funziona davvero! Padre, non sono solo i nostri ministri, ma tutti nel regno si sono trasformati in animali! Chiama le fate! Le fate furono convocate, ma non poterono annullare la maledizione. Chiama l'eremita! E presto arrivò l'eremita, ma anche lui fallì nell'annullare la maledizione. Mio re, questa maledizione è irreversibile. Solo chi ha lanciato l'incantesimo deve essere in grado di annullarlo. Mi dispiace. Il re e la principessa erano tristi. Proprio in quel momento un'idea colpì la principessa Aria. Padre, ricordi Caccio? Il tuo saggio consigliere? Certo che lo ricordo. Ah, si è trasformato in un cane. Come vorrei poter usare il suo aiuto in questo momento di crisi? Puoi ancora. Cosa intendi? La maledizione ha trasformato i nostri uomini in animali, ma non ha tolto loro il potere di ragionare e parlare. Possono ancora parlare, almeno alcuni di loro. Il re fu felice di sentirlo. Stupefacente! Come facevo a non saperlo? Chiama subito Icacio! La principessa Aria chiamò Icacio e lui venne subito. Benvenuto Icacio, come stai? Mi sono trasformato in un cane, come pensi che stia? Colpa mia, forse dovremmo saltare i saluti e arrivare subito al punto. Sarebbe meraviglioso! Dimmi Icacio, cosa può tirarci fuori da questa maledizione? Come ha detto l'eremita, la maledizione può essere spezzata solo da chi l'ha lanciata. Sembra che ci sia una sola soluzione. Sto ascoltando. Dovremmo far pace con la regina Minerva. Bene, sono pronto. Ma la conosci, non acconsentirà mai all'offerta di pace. Quindi dalle quello che vuole. A questo punto il re Julian divenne silenzioso e triste. Cosa vuole, padre? Mia principessa, lei vuole la spada magica. La spada magica? È la spada dei nostri antenati, tramandata nella nostra famiglia da generazioni. Le sue energie rendono il nostro esercito forte contro la fame, le piogge, il caldo e persino le tempeste, dandoci un vantaggio sull'esercito avversario. Tuo nonno me la diede. E un giorno speravo che avrei potuto passarla a tuo marito. Sì, cosa che ora non sembra essere possibile. Invia le fate a Clong per invitare la regina Minerva al nostro annuale festival del saltatore. Dille che alla fine dell'evento le donerò la spada magica. Le fate presentarono alla regina Minerva l'offerta del re. Lei sorrise. Il giorno è finalmente arrivato. Accetto l'invito. Dite al re Julian che sarò lì per partecipare all'evento e prendere la spada magica. Presto arrivò il giorno dell'annuale festival del saltatore. Tutti erano eccitati. Il re e la principessa annunciarono l'inizio dell'evento. Era presente anche la regina Minerva. Ora tra i partecipanti, la rana, il coniglio e la cavalletta erano considerati i migliori saltatori mai vissuti a Meridon. Stiamo per iniziare, maestà. Ottimo! Buon pomeriggio a tutti! Benvenuti al Festival Annuale dei Saltatori! Date inizio ai giochi! Sì! Sì! Prima di tutto vi presento la rana! Saluti, sua maestà! Principessa Aria, regina Minerva di Clom, e saluti, esseri di Meredon! Sono la rana delle valli del nord ed è un grande onore far parte del Festival del Saltatore. Il re fu piuttosto colpito dalle buone maniere della rana. È davvero ben educato. Mi chiedo come sarebbe se fosse un uomo. Forse se tutto va bene e la maledizione viene rimossa, possiamo chiedergli di sposarti. Ah, eccoci di nuovo. La rana salì sul palco e si mise al suo posto. La folla aspettava ancora. Fece un respiro profondo e mentre stava per saltare, una mosca si avvicinò a lui. Lui si distrasse e iniziò ad inseguire la mosca. Ah, avrei dovuto permettere al mio piccolo di partecipare. Avrebbe fatto un lavoro molto migliore. Bene. È stato deludente, ma non preoccupatevi perché vi presento il prossimo, il coniglio! Yeah! Sì! Saluti, maestà! Sono il coniglio dalle colline a ovest del fiume Celina! Anche il coniglio era composto e ben educato, il che fece piacere al re. Non interessata! Il coniglio spinse forte e saltò e atterrò proprio di fronte al re. Il re ne fu colpito. Incredibile, coniglio! Molto bene! Anche la regina Minerva era divertita dal salto del coniglio. Sorrise e batté le mani. E infine vi presento la cavalletta! Sì! Yeah! La cavalletta era silenziosa. Non disse una parola, né salutò il re. Dall'odore che sento, posso dire che proviene da una buona famiglia e che è un essere molto audace. Ah, molto bene allora. Non dirò altro. Lascia che la sfida abbia inizio. La cavalletta si mise in posizione e immediatamente, proprio mentre stava per saltare, i suoi sensi captarono qualcosa che veniva da dietro, smuovendo l'aria. Capì immediatamente che era una freccia che si stava dirigendo verso la regina Minerva. Saltò immediatamente in piedi e con un potente calcio cambiò la direzione della freccia. La freccia mancò alla regina e colpì la corteccia di un albero. La regina Minerva fu scioccata e così fu anche il re Julian. Proprio in quel momento un'aquila che trasportava un arco e una freccia arrivò e iniziò ad urlare contro la cavalletta. Stupido! Perché hai salvato la regina cattiva che ha rovinato la nostra vita? È ospite del nostro re e sotto la sua protezione mentre qui. Le tue azioni hanno rovinato la reputazione del nostro re. Sentendo questo, la regina Minerva rimase molto colpita. Grazie, cavalletta. E tu, regina Minerva, mi dispiace moltissimo. Per favore, perdona l'aquila perché la sua rabbia ha avuto la meglio su di lui. Non mi importa dell'aquila. La sua freccia non può ferirmi, anche se mi avesse colpita, lo sai. Abbiamo combattuto battaglie, ma devo dire, sono impressionata dalla cavalletta. Detto questo, la regina Minerva indicò la cavalletta, che subito si trasformò in un bellissimo soldato. E Ragnar, il potente soldato! La principessa Aria sorrise quando vide Ragnar. Le era sempre piaciuto, anche se lui non lo sapeva. Ragnar, grazie per non esserti preoccupato della competizione e aver messo a rischio la tua vita per proteggere me e la reputazione del tuo re. Chiedimi qualsiasi cosa. Grazie, regina di Klong. Vorrei che tutti gli esseri di Meredon fossero liberati dal loro incantesimo e tornassero alla loro forma umana. La regina fu sorpresa dal desiderio di Ragnar. Sei sicuro che sia quello che vuoi? Posso darti tutte le ricchezze del mondo. Ti assicuro che non mi importa di nessuna di queste cose. La regina Minerva fu molto colpita, perché non aveva mai visto un soldato così forte e leale verso il suo re e il suo popolo. Si rivolse al re Julian. Basta con questa rivalità! Innanzitutto vorrei proporre di adottare Ragnar come figlio mio ed erede al mio trono. Tutti ne furono scioccati, incluso Ragnar. Ragnar, sei d'accordo? non ho mai avuto l'amore di una madre, dato che mia madre è morta dandomi alla luce. Se Vostra Maestà me lo permetterà, allora sì, sono d'accordo. Dichiaro Ragnar come vero figlio ed erede legittimo della regina Minerva. Re Julian alzò la mano e la folla tacque. E qual è la tua seconda proposta? Propongo che mio figlio e tua figlia si sposino. Beh, non so se mia figlia... Padre, sono d'accordo. Ragnar sorrise, perché amava anche lui la principessa. Wow, non sapevo che sarebbe stato così facile. Va bene, Minerva, avrai anche questo. Ci sono altre proposte? La regina Minerva sorrise. È tutto. Detto questo, mosse le mani in aria e ben presto scintille magiche toccarono tutte le creature, una ad una, e tornarono nelle loro forme umane. Wow! Sì, sì! Ah, eccomi! Sì! Sì! Meridon esplose di gioia. Ragnar e la principessa Arya si sposarono presto e proprio in quello stesso giorno, durante la festa, Icaccio annunciò il vincitore dell'annuale Festival del Saltatore. Dall'essere soldato a una cavalletta e da una cavalletta all'erede di Klong, Ragnar ha fatto i salti migliori ed è quindi il vincitore! E così la rivalità tra i due regni finì per sempre e tutti vissero felici e contenti.